Buongiorno, eccoci tornati in diretta da Radio ZAM. Dopo un bellissimo pezzo dei Radiohead, No Surprise, io li amo moltissimo, se non che recentemente ho scoperto che politicamente, hanno avuto delle cadute di stile non indifferenti. Però vabbè, sono degli ottimi artisti. A piccole dosi li prenderemo d'ora in poi, molto piccole dosi. Infatti io ho sempre un po' aspettato prima di mettere qualche loro canzone, poi ne abbiamo parlato adesso anche in redazione, insomma vediamo. Telefoneremo a Tom York per capire meglio la situazione. C'entrano anche col tema di oggi, proprio perché... Guarda un po'. Appunto, loro avevano programmato nel 2018 un concerto a Tel Aviv e ci sono state un sacco di polemiche, un sacco di artisti si sono fatti sentire facendogli notare che non era politicamente corretto il loro suonare e poter appunto fare un concerto in Israele proprio per una questione politica nei confronti del popolo palestinese. E purtroppo il cantante, che è anche il frontman, Tom York, ha detto che la musica va oltre queste cose. Purtroppo no, anzi la musica deve essere un veicolo di messaggi sociali, politici. E in questo caso, Tom York, ti prego, fatti carico di questa causa, di questa situazione, anche tu, e non fare mai più concerti a Tel Aviv, per favore. L'abbiamo detto. Dovevamo farlo. Ti ascolterà sicuramente. Anche York, secondo me, ma se non riesce c'è il podcast, perché vi ricordiamo che stiamo migrando... Ci piace parlare anche di migrazioni in termini informatici, da un social a un sito. Perché questa cosa? Perché abbiamo preferito, abbiamo notato anzi delle assonanze rispetto a un semplicissimo social, ovviamente free e tutta una serie di cose molto carine, a un altro sito molto più bello che è Archive. Archive è un sito di dominio americano dove sono i vecchi nerd informatici, wow, hacker degli anni 70-80, la vecchia ciurma che adesso è diventata vecchia e ha messo su questo database molto importante, dove girano tantissimi contenuti, quasi tutti secondo me in Creative Commons, vuol dire libero dominio, possono girare, possono essere scaricati, scambio, eccetera. Fruizione, bello. Esatto, quindi anche i nostri podcast potranno essere scaricati in vari formati e potete metterli sui vostri dispositivi e portarveli in giro o mandarli a amici, parenti, fisicamente. Questo perché anche attraverso la tecnologia noi crediamo nell'autodeterminazione delle comunità resistenti, quindi sempre, anche sempre, nei siti internet. Sì, non è inutile fare dei discorsi nella realtà se poi si va a dare informazione a destra e a sinistra anche a personaggi scomodi che non ci interessano e che non tolleriamo, perché è proprio una questione di tolleranza. E io ringrazio ancora Giulia per questa bellissima opportunità. Vi ricordo che potete scrivere alla pagina Facebook di Radio ZM, sentire i podcast appunto su Archive, rimanere informati. Abbiamo perso un utente oggi su Telegram. No. Ditecelo se scriviamo troppo, che lo diciamo al gruppo redazione, che magari mandano troppi messaggi, perché vorremmo comunque far sì che sia un contenitore il più tranquillo possibile, dove potete fruire tutto quello che passa più o meno in diretta. Quindi ieri sono stati mandati dei libri, eccetera, forse alla persona che se n'è andata non ha gradito troppa cultura. Abbiamo esagerato. Penso che io oggi ne avevo 4 da mandare, quindi mandiamoli, ma poi prendiamo uno e guadagniamo 5, quindi non è quello il problema. Abbiamo ancora qua in playlist un sacco di brani che non sono stati mandati l'altra volta. Già, oppure vogliamo anche rimandare quelli che abbiamo già mandato, sì, io ci direi interessa che poco. Per cominciare, iniziare a gustare un po' di questa atmosfera palestinese, possiamo ancora usufruire della playlist dell'altra volta e poi pian piano me la faccio rimpinguare dai compagni e amici palestinesi, perché grazie a questa tecnologia infatti lo scambio è per fortuna abbastanza semplice, anche se appunto non possiamo vederci, abbracciarci oltre alla quarantena ovviamente. E niente, siamo tornati appunto per parlare di Palestina un pochettino. Io mi rendo veicolo in questo caso, proprio perché ci tengo che, nonostante la chiusura che c'è in questo momento in praticamente tutto il mondo, possiamo usare uno strumento come la radio che arriva ovunque e quindi parlare di Palestina, scoprire un po' questa cultura, questo popolo, questa terra, e appunto io magari introduco delle questioni, dei temi, ma saranno poi i diretti interessati a parlarcene, proprio perché chi meglio di loro può raccontarci e spiegarci la loro situazione. E direi che per il momento può bastare, direi di lanciare una bella introduzione. Abbiamo un piccolo introduzione, sì, e volevamo deliziarvi con questa canzone. L'artista è Julia Bodross, è un'artista, lei in realtà libanese, ma che è famosissima in Palestina perché è una grande sostenitrice della causa palestinese e ha dedicato anche molte sue canzoni a questa terra, a questo popolo, sulla resistenza. E ogni volta fa venire i brividi esattamente a sentirle, quindi volevamo iniziare la radio della trasmissione di oggi con qualcosa di potente. Ci siamo, quindi Julia Bodross, giusto? Bodross, tutta sì, per voi, ci sentiamo fra pochissimo. A tra poco. ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا ما بتقدر أبدا اسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع من وقفت بوش الأفكار هالدنيا بتزعل كل وحدة الحقيقة بتضل هالدنيا بتزعل كل وحدة الحقيقة ترجمة Sì. Beh, questo pezzo è bellissimo comunque. No, lei è... ha una voce di una bellezza disarmante e anche i contenuti dei testi sono molto sempre abbastanza profondi e forti. E vabbè, adesso nello specifico tutti non li so, quindi... Però era un buon modo oggi per iniziare la nostra trasmissione con lei e oggi volevo approfondire un pochettino il tema dei campi profughi. Ma prima, un trucco di magia. Oh oh, aiuto. Perché questo trucco? Perché quel microfono è più bello. Ma così mi hai allontanata dal mio telefono. Ma adesso ci penso io, tu vai avanti a chiacchierare, stai tranquilla. Vabbè, volevo approfondire un pochettino la tematica dei campi profughi, che cosa sono, come nascono, che tipo di società, di vita c'è all'interno dei campi, e, ma poi lascerò la parola a chi appunto li vive direttamente, quotidianamente. E, per fare questo... Vabbè, ho ripassato un po' anche la storia, cerco sempre di non fare appunto il pippone perché appunto siamo pieno pomeriggio, oggi è sabato, magari le persone vogliono anche rilassarsi, quindi è tutto filtrato anche attraverso la mia esperienza dei campi profughi e niente, nascono dopo il 1948. Proprio quando è stato dichiarato lo Stato di Israele, con esattezza il 14 maggio 1948, e il giorno dopo è l'anniversario per i palestinesi della Nakba, che letteralmente significa catastrofe. E è cominciato il dislocamento e l'esodo del popolo palestinese. Durante, diciamo, tutto il periodo successivo, la politica israeliana era quella di far passare appunto la cosa come anche abbastanza normale, il fatto che ci fosse tutto questo trasferimento di intere popolazioni. Ovviamente gli storici, chi anche ha vissuto quel periodo, tendono a ricostruirlo in maniera più oggettiva e di fatto è stata una vera e propria... pulizia etnica, è così che viene definita nei testi storici. Poi io a tal proposito, visto che non sono nessuno se non qualcuno qui che tiene particolarmente a tutto ciò che accade lì, alle persone che vivono lì, vi darò dei riferimenti di testi molto interessanti, scritti molto bene, per chi volesse un attimino approfondire magari questo tema, non mi riesce di concordare. Fra loro le parole. E appunto una pulizia etnica, perché di fatto attraverso il la filosofia, adesso, pensiero sionista, il loro scopo era quello di creare uno stato per gli ebrei. E di fatto loro continuavano a dire una terra senza popolo per un popolo senza terra. Quindi loro continuano a dire no, ma in Palestina di fatto non c'è nessuno, non sono così tanti, possiamo andare lì noi, è la terra promessa, quella che Dio ci ha promesso. E così c'è un avvenimento abbastanza importante da ricordare. Ad aprile del 48 si è purtroppo verificato il massacro di Deir Yassin ed è stato un avvenimento che gli israeliani hanno... usato per poi deterrente nei confronti del resto del popolo palestinese per convincerli ad abbandonare le loro case e recarsi altrove, appunto. Sono state massacrate tantissime persone, soprattutto donne e bambini, in quell'avvenimento, e siamo in aprile del 1948. Da quel momento in poi, appunto, molti palestinesi, proprio per paura, hanno deciso di abbandonare le proprie case. La cosa particolare è che appunto l'ONU è anche intervenuto in seguito a questi fatti e c'è una risoluzione ONU, la 194, che di fatto sancisce il diritto di tutti i palestinesi che hanno abbandonato le loro terre, il diritto di poter tornare prima o poi alle loro case, alle loro terre, a casa loro di fatto. Questa risoluzione ovviamente non ha mai avuto, non si è mai verificata fino ad oggi ed è una delle più grandi battaglie che ancora oggi porta avanti il popolo palestinese, soprattutto i rifugiati politici, rivendicano ancora il loro diritto al ritorno e quindi di poter tornare nelle loro terre. Nello specifico, io ho avuto diretta esperienza di conoscere due campi profughi, quello di Aida e quello di Deisha, che si trovano proprio attaccati a Betlemme. E qui troviamo persone, famiglie che arrivano nella maggior parte dei casi dalla zona ovest di Gerusalemme e dalla zona di Al-Khalil, Hebron. Di fatto intere famiglie, appunto, dopo il 1948 sono state dislocate qua vicino a Betlemme, in questi campi profughi che all'inizio erano proprio come ce li immaginiamo noi, delle tendopoli, proprio perché in teoria doveva essere una soluzione provvisoria. Dopo questo sarebbero dovuti tornare ognuno a casa propria, e così non è stato, e quindi i palestinesi dislocati hanno cominciato ad organizzarsi proprio per poter vivere una vita minimamente degna. Quindi hanno iniziato a costruire, ad Aida ad esempio mi sono fatta raccontare un po' la storia di questo campo profughi che si trova proprio vicino alla tomba di Rachele, ma separato dal muro, che è stato costruito poi negli anni 2000. E qua magari venivano costruite delle case condivise anche all'inizio da più famiglie, e i bagni, la cosa particolare, si trovavano dislocati all'interno del campo, quindi erano di tutti e bisognava anche fare un po' di strada per poterci arrivare. Questa stessa cosa anche per l'acqua, quindi di sicuro non delle soluzioni abbastanza ottimali. Poi nel tempo, pian pianino, hanno cominciato a costruire ognuno casa sua con i bagni, e adesso sono di fatto dei veri e propri quartieri. E come dicevo l'altra volta, hanno delle stradine un po' improvvisate, man mano che la famiglia aumenta costruiscono piani per dare un po' di privacy e autonomia ai figli che crescono. E niente, io appunto ho vissuto nel campo profughi di Deisha. Potrei raccontarvi la mia esperienza da italiana, europea, che cos'è, però diciamo che è una visione abbastanza limitata in un certo senso, e soprattutto è anche abbastanza condivisa da parecchie persone che sono state là. Sentire invece la voce di alcuni palestinesi e cosa significa essere rifugiati politici nella propria terra, vivere in un campo profughi, io credo che sia molto più interessante ed emozionante. Ed è per questo che oggi avevo deciso di chiamare, in questo caso la telefonata arriverà in Italia. Perché? Perché? Perché io ho avuto la fortuna di incontrare Adesha Aysar, è un ragazzo che nell'ultimo anno e mezzo si è trasferito qua in Italia perché ha trovato l'amore e si è sposato con un'italiana. Ma dai, che bello! Sì, però lui appunto è una persona con un cuore immenso, è una delle persone più disponibili e accoglienti che abbia mai conosciuto. E in modo particolare, la sua particolarità è che lui è uno scrittore e ha scritto in inglese un testo proprio per raccontare la sua vita, la vita quotidiana in un campo profughi, in particolar modo quello di Deisha. E ultimamente stava cercando anche di tradurlo, no, l'ha tradotto, di pubblicarlo anche in italiano. Non so, adesso gli chiederemo anche in anteprima in radio che cosa sta succedendo e se c'è riuscito, però chi meglio di lui, che è anche scrittore, può raccontarci com'è essere palestinesi. Quindi magari facciamo andare una canzone e poi lo telefoniamo. Sì, vai. Allora, Giulia al comando. Sì. Sì, ecco, quindi eccola lì, bravissima. Scegli. Vabbè, rimando questa perché spero che Man sia all'ascolto. Anche ed noi. È una delle sue canzoni preferite che lui mi ha fatto conoscere. Man, this is for you. Bu Kultum. Esatto, prendi la trascina. Bravissima. E via di play. E via di play, no, che quello è lì, sì. Bu Kultum, Zammelu. زملوني زملوني طفي بردي يا بحور زملوني وزملوني على صدري حملوا كفي روحي كفي روحي كفلوني يا العيوب حناطيني كفليني علم القاسي الحنو سند أنثى بألف رجال تبني بظهر سدود بين أسود الدور تضوي سما ننجو لما تطغى براسي نفسي وتبدأ تنهاشني الوحوش غيرك عنهم ما بيحوش فبخوفهم فيك إنه بلاها بترجعوا أنقص كيان مو بس ضلع اللي زنب عن هوا قومي يا طوف عن الروى علمي العطاشة ترتوى عمروا في عمروا جيل وعطوا عمر للمروى ما بيخافوا الدم ولا بيهابوا الموت بس بيخاف اللي بحب يطلع له صوت خوف فيك يكبروا فيك بعلمون فيك Tutto a posto, siamo vivi, non è... paura, eh. Non avevo abbassato... Io chiamerei Aisar. Sì, sì, ma pronto. Ci risponde da? Lo chiediamo a lui, lo chiediamo a lui. Ok, lo chiediamo direttamente a lui. Allo? Aisar, allo? Yes. Chi fa, Aisar? Anna, tamam, chi halik? Tamam, shukran. Hey, Aisar... You're welcome alla Usalla in our radio in ZAM. Thank you for inviting me to talk. Wait, I don't hear you so well. Aspetta. Try to speak a little bit so I can understand if I can hear you. Is it fine now? Yes, this is better. Okay. Perfect. Thank you to be with us in this radio connection. No, I would like to thank you for inviting me to talk a bit also. So, Aisar, our listener, I don't know if it's possible to say it like that, wants to know who are you, where are you now? Because I said about you a little bit, you are from Dacia, but now you live in Italy, right? Yes. My name is Aisar Al-Saifi. Originally from a village. It was destroyed during the war, but then I moved with my family in the Haitian refugee camp. Since 1 year, I'm living in Italy with my wife after I get married. So I have moved to Italy. Queen, I will translate for... Okay. Niente, Aisar è un ragazzo che ha vissuto a Dacia tutta la sua infanzia, tutta la sua giovinezza, anche la sua famiglia è stata dislocata qui e da un anno vive invece in Italia perché si è sposato con Morena, sua moglie, e ringrazia anche il fatto di essere stato invitato nella nostra radio. So, Aisar, introduce a little bit the theme about refugee camp, and I would like to ask you what it means for you, for young people, live in a refugee camp. Okay, maybe it's good also to mention to them what is going on or what is the meaning of refugee camp. Yes, sure. Where I came from, called the Haitian refugee camp, there is close to 15,000 persons living less than 1 kilometer. 60% of the population, they are kids under 18 years old. So it's too much crowded in small area. Allora, il campo profughi da dove viene Aysar ha un'estensione di 1 chilometro quadrato e ci vivono intorno alle 17.000 persone, quindi potete immaginare che densità ci sia. E è una percentuale molto alta di persone giovani che ci vivono. So the camp today, it's not like a place where people they live in tents and like maybe what the first image could be. It's not part of city, mainly city. But the only difference that those people who live in this refugee camp, originally they are not from this area, from a village. They were kicked out after the war, so they start a new life in refugee camp. That's why we call it refugee camp, because in the document it's temporary station till there will be political solution. Allora, ci sta dicendo che il significato di questa parola indica proprio il fatto che nei campi profughi, che assomigliano proprio a dei quartieri, ci vivono delle persone che dopo la guerra sono state dislocate dai loro paesi di origine e sono state messe a vivere lì, in teoria, temporaneamente. Quindi doveva essere una soluzione provvisoria. These camps it was and still suffering from many social and political problems that maybe me or us as a refugees we live it there. In questo campo si vivono delle difficoltà anche sociali e che hanno un significato particolare per le persone che ci vivono, e proprio anche in funzione della situazione. So problems of electricity, problems of water, problems of pollution, unemployment, plus the Israeli's occupation. Sono problemi che riguardano questioni pratiche come l'acqua, l'elettricità, ma anche di carattere sociale, come ad esempio il non riuscire a trovare lavoro, e in più a tutto questo si aggiunge anche il fatto di vivere sotto occupazione israeliana. And maybe because all of us now in a situation that we had to stay home, maybe people they can imagine the difficulties of living in a refugee camp or in a place that really the sun do not reach. Sorry, I didn't hear you so well. Can you repeat? I mean, also in this situation of coronavirus and everyone is living in his house, so people they can imagine how it's really hard to be isolated in a place all your life with high level of population. E dice che appunto in questo momento la situazione è ancora peggiore a causa dell'isolamento dovuto al coronavirus. Quindi ci possiamo immaginare che già ci sono tutta una serie di difficoltà quotidiane, al momento sono amplificate da questo isolamento sociale imposto. Because the camps it's in Palestine, it's the most easy places to be affected by the virus nowadays. Proprio perché per la sua densità di popolazione e il fatto che ci sono tante persone che vivono insieme a stretto contatto, in un campo profughi è veramente facile il rischio di infezione. Plus what make it more difficult that Israeli soldiers keep invading the camp, like what's happened last week. They have invaded the camp in the night and arrested 3 persons. So with the hard situation, there is plus also political Israeli actions. E inoltre il rischio è anche più alto proprio perché l'esercito israeliano non rispetta queste norme sanitarie e diciamo che amplifica ancora di più la situazione politica, proprio perché, come è successo settimana scorsa, hanno fatto un'incursione nel campo durante la notte e quindi è estremamente difficile vivere in una situazione di questo genere. But also as there is a lot of volunteer work is happening nowadays in Italy. People are going to buy some food for the old people here in Italy. It's the same is going on also in Palestine or in my refugee camp with this group of volunteers and the association, which this situation make them solidarity. Però, proprio come è successo qua in Italia, anche in Palestina, nei campi profughi, si sono subito formati dei gruppi di volontari proprio per andare ad aiutare quelle persone che avrebbero avuto più difficoltà durante questa quarantena, e si è subito attivato un sistema appunto di solidarietà. And it's like a system of each one know his duty in this situation, what he have to do, what he have to support, which is the beauty thing among maybe this hard picture or hard image of refugee camp. E a maggior ragione nei campi profughi ogni persona sa bene che cosa deve fare, qual è il suo compito proprio per supportarsi a vicenda e stare vicini in questo momento di difficoltà. Yes. And Aysar, about the daily life in the camp for a young man like you, and also I know you find a way to keep going with your resistance about writing, right? Mm-hmm. So how? Yes. Yes. How you? You did with this, I don't know how to explain. No, okay, for the first part of your question, what do you think generally, in general, they could do in refugee camp? As I mentioned before, it's a difficult issue, not just for the youth, but also for the kids, that there is no spaces in the camp to play or to go. Maybe we were lucky that there were associations, social institutions. It was like open space for us where we can go there to learn and try to be creative in these areas or in these associations. Allora, per quello che lui diceva in precedenza riguardo al campo come anche strutturato, non è così facile riuscire ad avere anche i propri spazi per giocare, ad esempio per i bambini, o per riuscire a muoversi. Ed è per questo che una cosa molto importante che si trova nel campo profughi di Decia, ad esempio, sono le associazioni che permettono appunto ai ragazzi di poter trovarsi il loro spazio, imparare e anche comunicare fra di loro e resistere nel campo. Yes, this association give you the opportunity to know yourself more and to learn a new talent, to be able to dream and to implement your dream. Such as me when I was a child in this association, and I was always looking to try to record and write all these stories that I lived in the camp. Till I did it. Allora, queste associazioni per Aysar in particolar modo permettono proprio di poter crescere, imparare e soprattutto anche sognare, e per lui è stato proprio un modo di riuscire a confrontarsi con se stesso, ma imparare come affrontare la situazione, ma soprattutto appunto sognare. The same as for me when I... Like, or my journey, let's say, of being a writer. It was the same. When I used to walk in the camp, in the streets of the camp, there were many stories. It's amazing stories, interesting, inspiring stories. No one tried to write about it, because all researchers, all journalists, they always focus on the negative impact of the Israeli soldier on the camp. No one tried to look about the love story in refugee camp, funny and nice stories in camp. Always focus on the black thing, in the black image. Ci dice che appunto lui ha cominciato a immaginarsi questa carriera di scrittore proprio perché camminando fra le vie del campo si rendeva conto di essere circondato da tantissime storie, ma storie belle di vita, positive, che però nella quotidianità poi non venivano mai raccontate perché la tendenza è quella a parlare nello specifico della parte oscura, così lui l'ha definita, dell'essere in un campo profughi, dei rifugiati sotto occupazione israeliana. E invece lui voleva proprio dare voce a tutte queste storie positive. So you can imagine when me I was reading articles and news about me and about my camp, this image and this like news, it was really hard even when I was young, always, even if reality, but it's do not create this light inside me. Do not show me another dimension in my life. How these studies and research will help the kids or will help me when I was a child to grow up as a creative person or to be a strong person. That's why I decide, no, maybe this is the right moment to start writing about all these nice stories that exist in the camp. Dice appunto che per lui è stato difficile crescere in questa situazione e man mano che diventava grande e leggeva di questi articoli e storie che riguardavano il suo campo, la sua vita, lui ha proprio preso coscienza di questa situazione e ha deciso che era arrivato il momento di poter dar voce e scrivere di queste storie belle che lo riguardavano da vicino. So I start with my first novel when I was 23 years. The name of the book was The Last Lesson. And then I continue the second, the third. Now I finish translating the third one by the name of Mulberry Leaves, Folie di Gelso, which is a collection of short stories about the Palestinian prisoner in the jail. Quindi lui ha cominciato a 23 anni a scrivere le sue prime storie e ultimamente ha appena terminato di tradurre e trascrivere alcuni testi, si intitola Foglie di Gelso e riguardano anche nello specifico le storie di alcuni prigionieri, sono delle piccole, brevi storie che riguardano alcuni prigionieri politici anche, quindi la vita nel carcere. And I try in this book just to mention the human story, the funny story, more than political story. Someone lived with insects in the jail for more than 10 years. Someone create a music machine in the jail to continue playing music. Like stories that it's really hard to imagine, but it's happening in the reality there. E lui ci ha tenuto a scrivere queste storie che non riguardano per forza, non parlano in prima istanza della questione politica, ma sono storie proprio di vita quotidiana, come ad esempio un prigioniero che è riuscito ad autocostruirsi uno strumento musicale per poter riuscire comunque a continuare a suonare, a fare della musica. E lui ha voluto dare voce proprio a questa dimensione. And I find a nice publisher in Milano, which helped me to do this book. The name of the publisher is Prospero Editori, Editori. And the book will be published, I hope, in November. Voilà, it's beautiful. I'm very happy to hear that. Congratulations, Isar. Lui ha trovato una casa editrice. Can you repeat the editor? Prospero Editori, quindi il suo libro spera sarà pubblicato qua in Italia a novembre. Isar, when you know exactly, send me the name, the link, everything, and we publish everywhere your book. Oh, thank you, yes. Yes, we'll be happy for that. Okay, thank you so much, Isar, for your words and there is also Lorenzo with me. thank you. You want to thank you. Thank you. Hi. And thank you. I hope there are people listening to you, your story, and they will be ready to also to read your story. I hope so. Thank you, my friend. Thank you. And maybe in the next weeks, I will call you again to know better about your book and your situation also, okay? Yes, we'll be waiting. Thank you so much, Aysar. Really. Thank you. Shukran. Have fun. Bye. Bye. La conosco la casa editrice, Prospero Editore, è un amico, sì. È una bella casa editrice, pubblica un sacco di cose interessanti anche di giovanissimi, anche tesi di laurea, è molto sull'online, però la consiglio molto, sì. Bene, perché era da un po' che eravamo tutti molto attivi su questa cosa nel cercare una casa editrice disponibile per il suo libro e sono molto contenta che finalmente l'abbia trovata. E appunto Aysar ha una delicatezza nell'esporre. Io ho avuto la fortuna di leggere alcuni suoi estratti perché mi aveva chiesto la traduzione per l'introduzione, mi ero sentita molto onorata e ha una delicatezza nell'esporre emozioni, sentimenti che è veramente toccante e quindi spero che questo libro esca presto e che tutti corrano a comprarlo perché appunto riuscire dalla propria situazione a tirar fuori qualcosa, le cose positive, le cose belle che magari non arrivano, già è difficile riuscire a sentir parlare qua da noi in Italia di campi profughi e le notizie che arrivano di solito non sono particolarmente positive. E invece riuscire a vedere la dimensione umana, quella più delicata, che di fatto è poi quella che avvicina tutti quanti in quanto esseri umani, credo che sia assolutamente bellissimo e ringrazio Aysar per questo. Bene. Io vorrei ascoltare un po' di musica. Direi che visto che sei tu al pilota, vai. Direi sì, vado un po' a caso perché adesso ascoltiamone qua, magari anche un paio. Anche un paio, certamente. Prendo magari una che abbiamo ascoltato una volta sola. Esatto, brava. Questa l'avevo già preparata in realtà, guarda te. Perfetto. E quando vuoi, premi play. No. Aspetta. Dove vai? Play, esatto. Questa è Rimbanna, The Son of Love. Ci sentiamo fra pochissimo. أشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب يا حب مولاي لا تولع عني فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب يا حب مولاي لا تول عني فالعيش لا يطيب لا يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب يا حب مولاي لا تول عني فالعيش لا يطيب لا أنس يصفو للقلب إلا إذا تجلى له الحبيب شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب الحب أشهى إلي مما يقوله العارف اللبيب شمس الهوى في النفوس لاحت فأشرقت عندها القلوب الحب أشهى شمس الهوى. are back, maybe. Sorry, there are some problems sometimes in the radio with the connection, with the stuff, technology stuff, I don't understand really. But we are back, so sorry, man, can you continue, please? All right. So your question was for me, what does mean a refugee camp for me? Mm-hmm. Okay. So as I grow up, for me, first of all, my name is Ma'an. I'm 24 years old. I'm living in a Daesh refugee camp based in Bethlehem. Allora, I studied cinema, filmmaking. I finished and I'm working on this through making a political movies, in fact, to show other people, especially the international community, about what we live. I think you are going to translate, right? Yes. Allora, Man è nato e cresciuto nel campo profughi di Daesha. Lui ha 24 anni e ha studiato per diventare filmmaker, ma in particolar modo lui si occupa proprio di cinema politico. Lui vuole trasmettere, soprattutto per chi vive all'estero, per gli internazionali, che cosa significa essere palestinesi, qual è la situazione politica attuale della Palestina e in particolar modo anche del campo profughi. Allora, so I'm not going to repeat what my friend Aysar have been told about the Daesha camp and the growing up of the refugees camps, but something really important we have to know that the Palestinian refugees camps, that they are holding the Palestinian issue. I mean, if one time we're going to lose these refugees camps, we are losing our Palestinian case as a Palestinian refugees and as the right to return, basically. Allora, lui adesso non vuole ripetere ciò che ha già detto il suo amico Aysar sul significato del crescere in un campo profughi. Lui vuole insistere sul fatto che come rifugiati politici loro detengono un po' la responsabilità del portare avanti la causa palestinese. E cosa significa questo? So, a refugee camp, it means about and a big community are living in a really tiny place. They are all of them. They came through one issue, through one struggle, through one resist that they are againsting as well the Israeli occupation that they are having daily in their houses, in their places. So basically, are telling about a really huge family that they are living all of them together in a sadness, in a happiness, and everywhere in a solidarity. And so on. Lui ci dice che vivere in un campo profughi significa vivere in una comunità molto grande che vive in uno spazio anche ristretto e sono tutte persone accomunate dal fatto che sono passate attraverso la stessa lotta e quindi sono persone anche accomunate di fatto diventa una grande famiglia che condivide momenti belli, momenti brutti. Allora, and as well, for sure there is a big differences between as a person who's living in a refugee camp or in a city as well. With many things based on the political background, the social background, the way of growing up, the way socializing with the people, the way how you study, the way how you deal, and the way also how to resist even because in the refugees camps the way of resisting it's a collective way by all the refugees who are living inside the camp, but in the city, like nowadays, we are talking about individual fighting, which is more or less affected on the Palestinian issues or cases. Manche dice che c'è una profonda differenza tra il crescere in un campo profughi e in una città, in una qualsiasi altra città palestinese, proprio perché nel momento in cui nasci e cresci in un campo profughi hai un determinato tipo di background, vieni cresciuto con delle nozioni politiche molto forti e anche sociali molto forti che influenzano tutta la tua vita e il modo di affrontare e vedere le questioni, mentre invece in una città diciamo che l'aspetto politico e sociale è un pochettino più, più lontano e anche un po' più individuale, diciamo. So as well, like the refugees camps, they are having many issues are traveling with, as Aysar says, about the water, about electricity, about the Israeli attacks even during the night. That's daily, especially during this period, which is really bad period that all the world are going through, which is the coronavirus. Even they say, like, no, they're entering houses, they are arresting young people, and they just, like, you know, they are getting inside the houses, taking the guy. I mean, they are wearing their mask, there's everything, so they could not be affected, but some of them could hold the virus, as it happened in Hebron, like last week. Soldiers were running in the night through streets in Hebron, and they were spitting on the street and the Palestinian cars, Palestinian doors, just trying to let the coronavirus more spreading onto the Palestinian community. E ci dice che appunto, riprendendo anche quello che diceva Aysar, ci sono tutta una serie di questioni quotidiane molto difficili da affrontare, l'acqua, l'elettricità e l'occupazione israeliana, che nonostante il periodo abbastanza difficile, molto difficile, che tutto il mondo sta attraversando dovuto al coronavirus. Nonostante questo, comunque le incursioni dell'esercito israeliano continuano, soprattutto la notte, e entrano nelle case, arrestano persone, soprattutto ragazzi giovani, quindi anche infrangendo tutte le norme sanitarie che in questo momento, oltre a quelle ovviamente dei diritti umani, ma soprattutto le norme sanitarie, e addirittura ad Hebron si sono verificati dei casi di soldati che andavano in giro per la città sputando proprio per accelerare la trasmissione del virus nella comunità palestinese. Mm-hmm. And so yeah. Oh, yeah, no, no, no. No, go ahead. No, what about, because you're living in a refugee camp in Daisha, but now when the Palestinian Authority said, okay, we have to be in quarantine, everything is closed, and in Bethlehem everything was closed, nobody can enter and go out, you were outside Daisha, right? Sí. And now you are in Ramallah. How is the situation there? Well, I have been moved to Ramallah since 2 months for getting a new job and so on. So the closing, the lockdown of Bethlehem starts in the 5th of March. In the 5th of March at midnight. And basically, it was Thursday, and I was coming back to my family just to spend the weekend with them, like Friday, Saturday, and coming back to Ramallah. But unfortunately, like, I arrived only 1 hour to my flat, seeing my family, and after the speech of the Prime Minister about lockdown, I just have to move to Ramallah back. And now I'm blocked in Ramallah since 1 month and 10 days, almost. Praticamente quando c'è stato il blocco totale indetto dall'autorità palestinese il 5 di marzo, era un periodo in cui Man si trovava a Ramallah per lavoro, era tornato a casa dalla sua famiglia ad Esha proprio per passare il weekend e stare con la sua famiglia, e quando c'è stato questo annuncio lui è dovuto tornare immediatamente a Ramallah, che al momento è riconoscibile come la capitale della Palestina economica, e proprio per questioni di lavoro, quindi lui è rimasto di fatto chiuso fuori da Desha e lontano dalla sua famiglia, ed è un mese che lui sta vivendo a Ramallah. So, in Bethlehem they completely they are locked down completely since 1 month and 10 days for now, and just yesterday there was the new 2 days ago there was the new decision of closing more 30 days are not allowed going out to the street, not allowed to go to work, no markets are open except some really necessary things as the pharmacies, as the bakeries, and that's all. So we thought that that's going to be only in Bethlehem, because the big number of cases was basically based on in Bethlehem, the first period, but unfortunately now it's spreading more and more. Sì, lui dice che appunto principalmente all'inizio è stata chiusa principalmente Betlemme, proprio perché i casi si erano sviluppati lì, e quindi c'è stato un blocco totale, e proprio di ieri è l'annuncio che di ieri o qualche o due giorni fa che il blocco è stato prolungato di un altro mese. E questo appunto era per evitare che il contagio potesse espandersi troppo, ma in realtà anche nelle altre città stanno aumentando i malati. So basically for me, if right now if I wanted to go back to Bethlehem, it's not possible to leave Ramallah to enter Bethlehem. It's completely blocked. It's locked down completely, and otherwise a personal issue that if I show up in the street and a policeman right now, if a policeman catch me and show my ID that's written and I'm from Bethlehem, I will be like in a quarantine in the hospital for non-reasons, you know, just because I'm from Bethlehem. Ah. Oh. Dice che appunto è praticamente impossibile muoversi, ci sono tantissimi controlli anche lì, prima diceva anche che ci si può spostare solo per ragioni di comprovata necessità, come andare in farmacia o comprare del cibo, e per lui è ancora più complicato perché si trova a Ramallah ma ha una carta d'identità che appunto lo identifica come abitante di Betlemme, e se venisse fermato dovrebbe essere isolato proprio perché arriva dalla città di Betlemme, perché è stato il primo focolaio. Even also on the other hand, about the economic side, about like for example now we are completely staying at home and there is no work, plus there is no salaries for sure. So basically, or for example in my case, a person who's renting a flat and paying money, paying taxes, all this stuff, so that will be a lot of, you know, a lot of costs on you. Instead of that, you are not allowed to, not allowed, but no one could, for example, transfer for you something from Bethlehem, or to transfer something to Bethlehem as well. It's not really easy. So basically, you are basically locked down literally in this condition. Ci dice che anche dal punto di vista economico, ovviamente, è un enorme problema, proprio perché non si può andare a lavoro. E in questo modo, non andando a lavoro, non hai uno stipendio, e quindi devi ricorrere a tutte le risorse, alle risorse che hai, e non c'è neanche appunto nessuna possibilità di spostare determinate cose di cui hai bisogno, e quindi è veramente un grosso problema. So nowadays the cases of coronavirus in Palestine in general, it's around 210 cases, and the worst period will be during this week, and the second week will be based on the Palestinian workers who's coming through the Green Line from Jerusalem, from the cities in the occupied land. Basically, there is around 50,000 Palestinian workers gonna come back during this 2 weeks. So we are basically like expecting this 200 to be treble or more than the number of the coronavirus. Dice che al momento ci sono poco più di 200 casi di coronavirus in tutta la Palestina, ma che le prossime settimane saranno un po' decisive proprio perché ci sarà il ritorno di tutti quei lavoratori palestinesi che si recano in altre zone, come ad esempio Gerusalemme, quindi attraversano il confine, e che torneranno indietro e che è molto probabile che porteranno con sé anche il virus. Quindi nelle prossime settimane si aspettano un'impennata dei casi di malati. So these workers, the 50,000 workers, it's really big issue right now in the Palestinian street talks, because these workers, the only main income for them, it's their works and their architecture work, you know, mm-hmm. in Jerusalem or in the occupied cities as well. So basically, when they come back to their villages, to their houses in Bethlehem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, wherever, like now they are not having anything through the Palestinian Authority. So basically, they are going to be like, sorry for this, but they are going to be fucked up for a really long period if this like lockdown gonna last for long. Instead of the Palestinian Authority, they will not do something for them. E sarà anche un enorme problema economico, proprio perché questi lavoratori torneranno a casa, nei loro villaggi, nei loro paesi, nelle loro città, e saranno anche costretti a stare a casa in quarantena, bloccati, e persino l'autorità palestinese probabilmente non gli riconoscerà un aiuto, una sussistenza, e quindi sarà un enorme problema anche per loro dal punto di vista economico, ed è una questione di cui stanno parlando moltissimo in questo momento in Palestina. But the good thing is that far away from the Palestinian Authority, but the good thing is that there is a Palestinian solidarity, that there is a Palestinian strong solidarity, like the community between each other. So we can survive for a while, we can survive for a month, we can survive for 2 months, but later on, who gonna handle it? No one can handle it. Ci dice che allontanandosi appunto dall'autorità palestinese, di sicuro in Palestina c'è una fortissima rete di solidarietà fra le persone, fra le associazioni, che quindi probabilmente permetterà loro di poter sopravvivere per almeno 1 o 2 mesi. Ma il problema è per il dopo, come potranno fare dopo questo enorme blocco totale. Sonia. It's a very difficult situation. Also, I don't know if you heard about Italy. We are not totally the same, but the coronavirus, yes, from this side, we can say is totally the same about economic and about social life. And it's very hard also to think about, okay, now we are lockdown, but after how we will manage that. It's a very exactly, that's the question. It's what's gonna happen after the lockdown, after the quarantine, what's going to happen? That's the question, you know. Yes, it's a big question, and but you know, man, in this situation, in all over the world, we are totally the same. Okay, every country has this different situation, but coronavirus, it's the same for everybody. So I hope the people can try and start to think about not just himself, but, you know, like, okay, we are in a very difficult situation for everybody, so how we can manage that all together. I hope they will start to think in this way? Well, yeah, exactly, about like how we can survive. I mean, so on, like there is a lot of volunteers all over, not only in Palestine, in Italy, in Spain, in US, in France, wherever. Like there is a lot of volunteers who's trying to let the people to understand what does mean quarantine, because I'm sorry for this, but most of the people, they don't understand what does mean quarantine. Doesn't mean quarantine like to be in the street but without any shopping. Because people they react in this way, you know. Mm-hmm. Sì, so we are trying. Yeah, no, go ahead. Dice che appunto si rende conto che in tantissimi paesi si è attivato proprio un sistema importante di solidarietà, ma bisogna aiutare le persone a capire che cosa significa veramente quarantena. Quarantena significa che devi stare a casa e che non puoi andare in giro, fare le passeggiate, per fare shopping. È fondamentale che tutti siamo uniti su questo fronte. Like for example, few days ago, last week basically, there was a Palestinian prisoner was released from the jail, and you know, we find out there was like around 20,000 Palestinians were celebrating the releasing of this guy. So imagine if there is one single man or one single guy, he got the virus. So you're talking about 20,000 cases gonna appear, you know. Mm-hmm. So nowadays they are making the analyzation, you know, for them. Now, right now, until now, there is nothing, but I wish it will be nothing. But in these cases, like, people, they have to understand, whatever it will be, like, nowadays we're saying, okay, guys, we are sorry, even if you are a prisoner and you get released after 15 years, we are sorry, but you are not allowed to make any kind of celebration. Like, because to save your life, to save your family life, to save your neighbors, your friend, so on, you know? Yes. Ci racconta di questo fatto successo settimana scorsa in cui un prigioniero palestinese è stato rilasciato e loro sono soliti fare delle grandi feste per questi momenti perché sono veramente un momento importante per la comunità palestinese, ma in questo caso è stato inappropriato celebrare il rilascio del prigioniero, proprio perché se anche solo una persona presente a questa festa era infettata, avrebbe corso il rischio di infettare tantissime persone e il coronavirus si sarebbe diffuso a macchia d'olio. E quindi lui ribadisce l'importanza della quarantena, di stare chiusi, non avere contatti, proprio per evitare l'aumento dei contagi. Yeah. So, man, it's a very hard situation, and I hope the people also here in Italy listen to you, can understand your message, and to because we have to fight all together, no? Sí. And that's the right thing. I hope your quarantine will be end very soon, so you can come back to your family in Dacia. Thank you. I wish you too, you Italian, to be in really good condition after this quarantine. I'm really sorry about what's going on in Italy, about the big number of passing people, especially in Bergamo and Milan in the north especially. Like, people, they must understand that they have to take care of themselves, to take care of their family, to take care of their children. And like that, we're going to go out of this. Yes, you are totally right. And thank you for say that for Italy. It's very important, the international solidarity. Mm-hmm. And just a thing. So it's like it's a joke. Nowadays, it's in the Palestinian street that coronavirus, it's a political issue, come from US and Israel. Yes, it's a funny joke. I mean, yeah, we have nothing to do. Yeah, it's okay. Allora, thank you so much for this. Thank Thank you, too. Wish you would be fine. You too, and maybe we will call you next week to keep in touch for this situation, okay? Sure. I'm ready whenever you want. Okay. Oh, thank you. Shukran kteer, man. Have fun. Bye-bye. Ciao. Che carino, me lo ricordo. Eh sì, lui è stato qua a novembre. Sì. È venuto a trovarci, mi ha fatto, guardate, una sorpresa, mi ha organizzato. Io non lo sapevo che stava arrivando. Non lo sapevi? No, non sapevo che stava arrivando, però sapevo che era tu mi avevi accennato che era addirittura d'arrivo, mi ricordo. Ne avevi parlato prima, dicendo che c'era la possibilità che venisse in Italia. Di altri due ragazzi, sempre della stessa associazione Leilac. Sempre cineasti anche loro? No, loro si occupano di altro. Però mi avevi parlato di un cineasta. Che secondo me è lui. Non lo so, perché io non sapevo niente cioè sapevo che a novembre stava facendo un giretto perché finalmente era riuscito ad avere i permessi, perché esatto, anche lì mi avevi raccontato questa cosa, sì. Una trafila indegna e sapevo che era in Grecia a trovare dei suoi amici, ci eravamo sentiti mentre era lì, mi aveva raccontato e facevo anche scherzando, potresti però venire una volta in Italia, e una sera durante un'assemblea di degenerazione a casa mia, è incredibile. A un certo punto una mia amica era uscita, diceva, devo fare una cosa, torno subito, torna e alzo gli occhi e me lo trovo davanti. Fatò. Sono impazzita, sono scoppiata a piangere. No, ma è proprio il mio fratellino minore, è una delle persone con cui ho vissuto più a contatto okay. quando ero là ed è, come avete potuto sentire, comunque una persona estremamente ben radicata nella sua cultura, nei suoi ideali politici e che ha comunque una visione a 360 gradi che secondo me, ecco, per l'età che ha non è così scontata, cioè in Italia magari un ragazzo di 24 anni non lo trovi così cosciente e anche preparato da un certo punto di vista. Quindi sono ben contenta di averlo sentito, anche perché lui sta facendo appunto la quarantena lontano dalla sua famiglia, da casa sua. Qualche giorno fa mi ha chiamato, è un'emergenza, io mi ero già preoccupata e voleva che lo guidassi a fare la pasta. È stato divertentissimo. Cosa può fare la quarantena nonostante tutto? Bene, direi che forse è il momento di mettere un po' di radio e mandarla proprio tutto il pomeriggio, sì, questa un po' di playlist. Musica, come si fa allora però? Con la freccia bianca che c'è di lato? Esattamente. Scusate, niente. Qui c'è siamo sempre un po' di esatto. E non sono ancora molto pratica tecnicamente, no, della ma radio, sta migliorando quindi giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. Spero mi impappino tantissimo oggi, scusate anche per questo. E manderei magari una canzone un po' più ballabile. No, ballabile magari no, però. E poi dopo magari ci riconnettiamo un attimo per i saluti, cosa ne dici Lore? Assolutamente sì, e anche per tutte le varie info eccetera. Giusto, per quindi ricordare tutto. A tra poco. A tra pochissimo. موجود بلاك ما شفت معدود عديت عدت الفشل صبت تركتها شو بدي رح تصبر رح تخرب رح اقعد افكر بفشل مكان رح اربط عيشتك عيشة زي الكل انا مش فاهم ليش بدكم ترسموا لي طريقي سبوكم لبراسكو خلوكم زي ما بدكو انا من زمان عايش عشان هيك ترككم سامحكو كلكو مدام مش عاجبكو فكوكو فكفكو لا تفك مفاصلكو اللي معوش بلزموش هذا كله من ايده كلكم صرتوا كبار بعد ما شربتوا النيدو هيك بتريدوا ابعثلو على بريده لانه الفاشل الحقيقي الله دايما بيزيده كل ما تشوفني بس تذكرني اني فاشل اوعك تتعامل مع واحد زي جيمي لحاله مش عامل اه سافل دون هامل دون اخوان من زمان كل ما تسأل عنه يقولك داحل هيني ماشي كل يوم عم بجرب شغلي واللي حارق دمي اني لما نام بكون قلقان من بكرة لكن متفائل خير بصحى بسمع امي بتحكي اني عاطل عاطلي يومه بعدي والبعد ساعة زيه واحد بيكون مستعطف والباقي بعينهم بلمح انهم شفقانين وحياتك اني نسيتهم من كثرتهم بتحس ببالي بصير نفسي ارجع بسيط والمعظم بمزه روحي من جوا وبجرع كل تفصيلي بفتفت عظامي المنخوره ولا عظمي سليمه كل مجروحي تلتم كل ما عظامي تلعن بقول لك ما راح يطلع بيدك شي ما بضلك تحلم معاه ما راح تزبط معاه بدها تزبط غاوة بدها تزبط غاوة بدها تزبط غاوة واللي براسي يمشي غصب عن كل واحد كاره يابا بدها تزبط غاوة بدها تزبط غاوة بدها تزبط غاوة واللي براسي يمشي غصب عن كل واحد كاره يابا قالوا لي ما بنفع عمرك ما بتطلع عمرك ما حطك بجواز هالمقطع حياتي مش مرتاح شايد طلع شو اتحول اتغير خناعة جواتي جواتي خلايا عم تحكيني اكبر من اي حدا هون عم بعمل الاشياء اللي انا مخلصها وروح لان عتزبط في يوم روح ما فيش كبت بس برضو ما فيش بعيوني اي نوم لاني عم بس عادي ما وقف لو اني مجرم حضل اشلف ما في تخلف لاني عم عيخ وحسا واللي براسي وصيف ما فيش اي كلمة توقفني عند حدي لانه ما فيش بعيوني حدود قالوا لي افتخر بشدنا وامجدنا بالماضي بالراسي فرابي وسينا والهيثم وابنه الحرشت هذا مستوي لاني بطلع لقدام وعمري ما برضى اطلع لورا ورا قال تعرفوا ستبدي لك الايام وما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي روحا ما رح تزبط معك بدها تزبط خاوه وليك بدها تزبط خاوه يسمع خاوة ولك بدو يسمع خاوة لا يصح إلا صحي ولي ولي بيقول المثل شو خلي عندك أمل ما بديش أمل بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة واللي براسي يمشي غصب عن كل واحد كاري بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة واللي براسي غصب عن كل واحد يمشي يابا يابا بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة واللي براسي يمشي غصب عن كل واحد يمشي يابا بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة بدها تزبط خاوة واللي براسي نومتها عادي كل شيء ما بيها لكن الساعة 11 بالليل قعدت لقيتها الشاخر يعني حيل حيل بس ما تقول لي ماما اقعد يرحمها يا زين قل لي كل اللي بتخبي ما بتحكي فيه يا زين تحكي فيه يا زين قل لي كل اللي اتخبي وبتخصي فيه انا اللي ما اريدك اللي ما اريدك تتحكم اللي ما اريدك اللي خاص فيه. أنا اللي ما أريده اللي ما أريده يتحكموا فيه ويتحكموا فينا يا زين. مهما قال عندك كيف جيناتنا زي ما سمعت عرفت تحت بغز سمعت مش عم بحكي عن الإدمان وحبوب الفاليوم أنا عم بحكي يورانيوم تخصيب أي تنظير إلى نظير وحيد يسمى يورانيوم منضف كنت الضب تحكي شي كتير الموضوع انضف ساح تقرير مكان تقرير الموضوع مصير di bentornati nuovo su Radio ZM. Questa è stata una puntata bellissima. Siamo riusciti a sentire due amici di Giulia. Sì, anche emozionante, devo dire, a tratti. E anche queste canzoni un po' malinconiche, almeno per me. Oh, a me piacciono. No, mi piacciono tantissimo, e che a me fanno ripensare a tutti i momenti vissuti là, e quindi viene un po' il magone. Però sì, sono canzoni veramente stupende. E niente, direi che per oggi magari è abbastanza come puntata. Io vi rinnovo l'invito a scrivere alla nostra pagina di Facebook Radio ZAM, è il modo più diretto al momento che avete per comunicare con noi. Se avete domande, suggestioni, impressioni, qualsiasi cosa, ribadisco, tendenzialmente bella, carina, siate carini con noi per favore. E potete scrivercela sulla pagina e noi saremo ben felici di leggerla e di condividerla. Sì. E, che dire? Beh, ci sono anche altri canali. Ci sono tantissimi canali. Ecco, sai cosa? Sono troppi ora. Sono adesso troppi, faccio sì. Veramente fatica. Però io dinosauro tecnologico. Abbiamo anche Telegram dove potete ricevere pochi minuti prima quando andiamo in diretta, così rimanete sempre sul pezzo. E poi ci sono i canali Mixcloud e Archive per i podcast, il canale Instagram tenuto da Cigo e questa bellissima diretta sul nostro dominio, sul dominio di Unit, che ringraziamo. E andiamo avanti con la musica. Vi salutiamo così? Sì, faccio anche qui sempre come al solito delle introduzioni. Che vai. Dire. Allora, la prossima artista, anche lei è libanese, ma tutti i palestinesi la amano profondamente e la tradizione vuole che Fairuz venga ascoltata al mattino. Adesso non chiedetemi bene perché, io questa cosa non l'ho ben capita, però è bello anche che alcune volte le cose rimangano un po' nel mistero, a volte appunto da questa nebbiolina che non si può mica capire sempre tutto, giustamente. È una tradizione loro. Loro al mattino si svegliano e ascoltano Fairuz. E come vi dicevo è libanese, ma anche lei ha scritto molto per la Palestina, è molto vicina ai palestinesi ed è per questo che loro la amano tanto, e poi ha una voce che è una cosa strabiliante. E vabbè, posso raccontare un aneddoto mio personale a riguardo? Lo stai chiedendo a me? Non so, magari tu almeno mi puoi dire, vai, vai. Non mi importa. Vai, a me interessa un sacco. No, che quando sono stata là, il mio primo ritorno indietro, ho detto, faccio la furba, visto che sono stata 3 mesi in un campo profughi, adesso faccio gli ultimi 4 giorni passando purtroppo in Israele, ma almeno avrò delle cose da dire, delle cose da raccontare se mi dovessero chiedere. Io pensavo di essere furbissima, in realtà non è andata, cioè sì, sono stata furba da questo punto di vista perché avevo effettivamente poi delle cose da dire ai controlli, ma c'è stato un momento, è stato molto difficile dopo 3 mesi in un campo profughi palestinese attraversare Israele e la sua popolazione, insomma non è hai la tendenza a non avere a simpatia a nessuno, se non che una mattina mi sono svegliata, ero ad Haifa e sono andata a cercare un posto per fare colazione. Sono entrata ovviamente dove appena ho sentito la voce di Fairuz. C'era questo bar che mandava a tutto volume una canzone di questa cantante e quindi ho subito avuto uno slancio di ok. Questo è un posto sicuro. Questo è un posto amico, però la cosa strana è che sono entrata e appunto volevo dire al barista questa è Fairuz. Però nella mia testa si è scatenato un putiferio di paranoie perché ha detto magari glielo dico, lui mi dice ah sì è lei e allora perché tu la conosci e cosa faccio, cosa gli rispondo, non certo. Ero pronta, alla fine gli ho detto ah bellissima questa canzone, lui fa certo è Fairuz e c'è stato proprio questo piccolo sorriso in cui ci siamo un attimo avvicinati, però vabbè ho avuto un po' appunto le paranoie hanno avuto il sopravvento, però è stato proprio come un fulmine a ciel sereno, ho sentito Fairuz e mi sono catapultata, quindi è stato un po' così, vabbè niente, storia di malinconia. Ma dici che è la stessa canzone che c'era in quel bar? Non lo so, perché lei ne sono tantissime e io appunto non conoscendo così bene la lingua parlo, cioè dico proprio il minimo sindacale per sopravvivere. Non riesco a riconoscerle, poi vabbè, però è bella, è molto bella, la dedico a tutti i miei amici palestinesi che sono all'ascolto e poi ne metterò anche un'altra che mi è stata richiesta in particolar modo da Man, così mentre va questa di Fairuz la cerco e la carico, visto come sono brava. Bravissima, stavo per dirlo io. E così anche Man è contento. E a voi, Fairuz? No? No? Eh no, certo. Neanche, devi ancora no, caricarla. Esatto. Ma che palle. Vai. Ci siamo. Ovviamente questo è un appuntamento che si ripeterà anche settimana prossima, spero. Sì, per vostra gioia e fortuna. Sento già gli applausi, le urla. Sì, sì, vai, che bello. È mia mamma che urla per tutti, probabilmente. Che salutiamo tantissimo. Ciao mamma. E sabato prossimo alle 15 torniamo sempre per parlare di Palestina insieme ai nostri compagni e amici palestinesi. Quindi rimanete all'ascolto e buona settimana. Buona settimana a tutti quanti. دهلي